chiede di lavorazione, mettetele qui coperte. Lei lo sa? Non va a portare? Perché non va a portare? Ah? Le accogliete con rapida mossa. Mentre lo raccogliete, io dico quanto segue, mi ascoltate? La libreria Feltrinelli ha risposto sui libri e per quanto riguarda il terzo anno già ci siamo parlati. Per quanto riguarda voi, voi dovete portare due libri, il Tadier e il mio libro sul mattino. Il libro sul mattino si trova qua. Il libro del Tadier si trova invece alla Feltrinelli. Sono poche copie a disposizione, poi altre in ordine, però hanno insistito di prenotare subito, perché ci vogliono 20 giorni. E prima si chiude da tutto, dove andate? Aspettate che vi faccio sentire questa ragazza che fa. Adesso io dico la frase e cerchiamo la risposta della ragazza. Adesso vi dico la frase. Ci vogliono 20 giorni. Fare oggi, se no non avrete difficoltà con voi. Va bene? Va, questo è quello che volevo dire. Feltrinelli, al centro di Roma, sapete dove state. Allora, ci siamo? Siamo in un punto di estrema delicatezza e importanza. Di estrema delicatezza e importanza. Se chiudete la porta, l'ultimo giardino. Come sapete, eh? Abbiamo già fatto la lettura l'altra volta per questa richiesta del testo in francese, il capitolo che stiamo considerando, La notte, il dolore, è il capitolo 15, non dico di no. Situazione è quella dell'abbandono in una calda giornata, non è che l'abbandono è oggi una calda giornata, è una calda giornata parigina estiva. Attenzione, dovete entrare in parte nella solitudine assoluta, la governante in casa, tutto intorno al buio e questo martirio dentro. Questo martirio dentro è stato abbandonato, è morta, non tornerà mai più. In contrasto con il caldo c'è il fresco della sera che potrebbe arrivare a portare pace. Quindi noi abbiamo cominciato la traduzione l'altra volta e quindi la riprendiamo. Domandavo l'ora a François, le 6, l'ora del suicidio, gli ho detto l'altra volta, che si ammazza alle 6. Pensate che veramente poi uno si è ammazzato alle 6, sarei considerato come una sorta di, avete capito? Istigatore al suicidio. Le 6, finalmente il radiativo sarà per scomparire quel pesante calore di cui un tempo mi lamentavo con Albertine che amavamo tanto. La giornata stava per finire. Ma che cosa ci avrei guadagnato? La freschezza della sera si alzava, era il tramonto del sole, nella memoria in cima a una strada che prendevamo insieme per tornare a casa, scorgevo più lontano dell'ultimo villaggio come una stazione distante, inaccessibile per quella sera stessa in cui ci saremmo fermati a Valbec, sempre insieme, insieme allora. E adesso bisognava fermarsi di netto davanti a questo stesso abisso. Lei era morta. Non bastava chiudere le tende, cercavo di tappare gli occhi e le orecchie della memoria per non rivedere quella striscia arancione del tramonto, per non sentire quegli invisibili uccelli che si rispondevano da un albero all'altro di ogni lato di me, che abbracciava allora così teneramente quella che adesso era morta. Cercavo di evitare quelle sensazioni che danno l'umidità delle foglie della sera e il salire e il scendere delle strade a dorso d'asino, ma già quelle sensazioni non avevano riafferrato e ricondotto abbastanza lontano dal momento attuale affinché avesse tutto la rincorsa, tutto lo slancio necessario per colpirmi di nuovo l'idea che Albertina era morta. Ah, non sarei mai più entrato in un bosco, non avrei più passeggiato fra gli alberi, ma le grandi pianure mi sarebbero state meno crudeli. Quante volte avevo attraversato per andare a cercare Albertina, quante volte avevo ripreso al ritorno con lei la grande pianura di Creekville, ora con tempi brumosi in cui l'inondazione della nebbia ci dava l'illusione di essere circondati da un lago immenso, ora in sere limpide in cui il chiaro di luna smaterializzando la terra la faceva apparire a due passi, celeste come non è durante il giorno e nelle lontananze, chiudendo i campi, i boschi, il firmamento cui aveva assimilato essi nell'agata arborizzata d'un solo azzurro. François doveva essere contento della morte di Albertino e bisogna rendere le giustizie che per una sorta di convenienza e di tatto non simulava tristezza, ma le leggi non scritte del suo antico codice e la sua tradizione di contadina medievale che piange come alle canzoni di gesta erano più antiche che l'odio per Albertine, perfino Eulalie. Così, in una di quelle fini di pomeriggio, poiché non nascondevo abbastanza rapidamente la mia sofferenza, ella scorse le mie lacrime, servita dal suo istinto di antica piccola contadina che un tempo le faceva catturare e faceva soffrire gli animali e non provare gaiezza se non a strangolare i polli, a far cuocere vivi gli astici, e quando ero malata a osservare come le ferite che avrebbe inflitta una civetta, la mia cattiva cera che annunciava poi con tono funebre come un presagio di disgrazia. Ma il suo formulario di Combray non gli permetteva di prendere alla leggera le lacrime, i dolori, cose che giudicava altrettanto funeste come quella di togliersi la maglietta di flanella o di mangiare con tua moglie. Oh no, signor! No, non bisogna piangere così! Ti farà male! E, volendo fermare le mie lacrime, aveva l'aria altrettanto inquieta che si fosse trattato di fiotti, di sangue. Disgraziatamente io presi un'aria fredda che tagliò corto alle effusioni che sperava e che del resto sarebbero state poco sincere. Era forse per Albertine, da parte sua, come per Eulalie. E adesso, se la mia amica non poteva trarre da me alcun vantaggio, François aveva cessato di odiarla e tenne a mostrarmi tuttavia che si rendeva ben conto che io piangevo e che, seguendo soltanto il funesto esempio dei miei, non volevo farlo vedere. Non bisogna piangere, signore. Mi disse questa volta con tono più calmo e piuttosto per mostrarmi la sua chiaroveggenza che per testimoniarmi la sua pietà. E aggiunse, doveva capitare, era troppo felice, la poverina non ha saputo conoscere la sua felicità. Come il giorno è lento a morire in quelle smisurate sere estive. Un pallido fantasma della casa di fronte continuava indefinitamente ad acquarellare sul cielo la sua bianchezza persistente. Finalmente faceva notte. Era appartamento e io urtavo agli angoli, ai mobili dell'anticamera. Ma nella porta della scala, in mezzo al nero che credevo totale, la parte vetrata era traslucida e blu, d'un blu di fiore, d'un blu d'ala d'insetto, d'un blu che mi sarebbe sembrato bello se non avessi sentito che era un ultimo riflesso, tagliente come un acciaio, un colpo supremo che nella sua crudeltà infaticabile mi portava ancora il giorno. L'oscurità completa finiva tuttavia per arrivare, ma allora bastava una stella vista a lato di un albero nel cortile per ricordarmi le nostre partenze in carrozza dopo cena per i boschi di Chantepie tappezzati dal chiaro di luna. E anche nelle strade mi capitava di isolare sullo schienale di una panchina, di raccogliere la purezza naturale di un raggio di luna in mezzo alle luci artificiali di Parigi, su cui bisognava regnare, facendo rientrare un istante per la mia immaginazione la città della natura, col silenzio infinito dei campi evocati, il ricordo doloroso di passeggiate che gli avevo fatte con Albertine. Ah, quando la notte sarebbe finita. Ma la prima frescura dell'alba rabbrividivo, perché essa aveva ricondotto in me la dolcezza di quell'estate in cui da Valbecca in Carvina, da Carvina a Valbecca, tante volte ci eravamo riaccompagnati a casa l'un l'altro fino alle prime luci del giorno. Non avevo più che una speranza per l'avvenire, speranza ben più lacerante di un timore. Era di dimenticare Albertino. Sapevo che l'avrei dimenticata un giorno. Avevo pur dimenticato Gilberto, Madame de Germante. Avevo pur dimenticato mia nonna. Ed è il nostro più giusto e più crudele castigo di questo oblio così totale, tranquillo come quello dei cimiteri, attraverso il quale siamo distaccati da coloro che non amiamo più, che noi intravediamo quello stesso oblio come inevitabile adesso, al guardo a coloro che amiamo ancora. A dire il vero sappiamo che è uno stato non doloroso, uno stato di indifferenza, ma non potendo pensare contemporaneamente a quel che ero e a quel che sarei stato, pensavo con disperazione a tutto quel riparo di carezze, di baci, di sogni, amici, di cui bisognava ben presto lasciarmi spogliare per sempre. Lo slancio di quei ricordi così teneri, venendo a spezzarsi contro l'idea che lei era morta, mi opprimeva con l'urto di due flussi così contrari che io non potevo restare immobile. Mi alzavo, ma tutto un tratto mi fermavo, abbattuto. La stessa debole luce del giorno che vedevo nel momento in cui avevo lasciato Albertina ancora radioso e caldo dei suoi baci, era entrata sopra le tende tirando la sua lama verso sinistra, di cui la bianchezza fredda, implacabile e compatta, mi dava come un colpo di coltello. Bene, qui questo che vi ho detto è... Non ho capito? L'applauso, l'ha messo bene, Qui siamo nel centro della cosa più bella mai scritta, ve lo dico subito. Più bello di così non c'è. E poi volevo dire, più bello di così non c'è niente per quali motivi specifici. Perché vedete come tutti quanti ci possiamo, dicendo subito una considerazione kantiana, come tutti ci possiamo riconoscere in una situazione di questo genere. Tutti. Non è Parigi, ma è Roma. E io insisto sul fatto di Roma d'estate. Roma d'estate, l'abbandono, perché vorrete soffriste nel vostro cuore. Roma d'estate, il mare, Ostia, le strade deserte, no? Le strade deserte, le finestre aperte, siamo arrivati in una terribile estate antitempo, sono alla fine di aprile, per Dio, e qui sembra di stare a luglio, E se uno è solo, il telefono non squilla il telefonino, non squilla un cazzo. Se sostanzialmente nessuno ci viene a cercare, se l'abbandono è terribile, se uno pensa che tutto quello che fa, ricorda istantaneamente quello che ha fatto con la persona che l'ha abbandonata, ma che vita è? E allora uno, perché questa è la letteratura, sapere immedesimarsi. Un grande critico, Georges Poulet, in un libro difficile, che una volta buttavo, si chiama La Conscience Critique, diceva cosa bisogna fare in buona sostanza nella critica? Bisogna cercare di risalire con i propri mezzi, quindi con la propria esistenza, dove comincia la corrente creativa dello scrittore. Quindi noi non siamo felici, noi siamo di Roma, no? Ma possiamo essere abbandonati, possiamo vivere questa situazione, questa immedesimazione è quello che ci consente di comprendere la letteratura. Questa somma letteratura. Io ho letto questa pagina quante volte l'avrò letta, ma non so, dai 2 o 3 milioni di volte, forse 4, non so. Però il segno della bellezza è come quando uno sente il, K503 di Mozart. Quante volte l'ho letto? Quante volte ho visto le infinite opere d'arte che ho visto, però insomma, è vero che l'arte non fa sempre lo stesso effetto, volevo dire, se uno per esempio ha mangiato male, ha un peso sullo stomaco o ha le emorroidi, no, sono cose serie, si potrebbe anche dare un trattatello, come qualunque si possa fruire dell'arte soffrendo di un attacco di emorroidi. Molto difficile, quindi uno deve anche essere in buona disposizione. Ma devo dire anche un'altra cosa, a parte le cose, che se non ci sentiamo in stato d'amore, non sempre l'arte ci parla allo stesso modo. È come quando uno incontra una persona, non è che l'ama sempre allo stesso modo, magari è un po' annoiato, un po' stanco, perché come esattamente una donna o un uomo ti consigli di non frequentarlo troppo, così anche nell'arte, una cosa che una volta ho scritto, bisogna stare attenti, trattarla bene, l'arte. Non è una puttana pronta a lasciarsi prendere in ogni momento, no? Perché può stancarci, può stufarci, Io l'ho detta milioni di volte, ma bisogna stare attenti, bisogna trattare bene l'arte. Questo è un bellissimo concetto guarantista. Avete capito questo gesto, cosa vuol dire? Bisogna trattare bene l'arte. Se lo scriva, capito dove? Trattare bene vuol dire guardarla nel modo adeguato, nel modo giusto, no? Se vuoi vedere un bel quadro, devi stare attento, non lo puoi vedere nella confusione, non lo puoi vedere se non sei ben disposto. E poi basta vedere, parlo sempre di un quadro, in una mostra basta vedere un bel quadro, non lasciatevi irretire dalle torme degli oi folloni, delle masse idiote, no? si va, finisce per andare a vedere un quadro, due quadri. Si legge una pagina di letteratura, dopodiché, se è bella, si chiude, si va al frigorifero, vi ho già detto questa filosofia, si fa un panino, si ci distrae, intanto la pagina bella, no, aspetta, lì. Insomma, non è molto dissimile. Tu fai lavoro con una persona, dopo l'hai fatto, è fatto. Ma se tu trovassi una voracità, scusate la convenzione del particolare, ma insomma, la parte della professione è un'altra volta. Non ho ma 10 volte ricchezza, ma non è solo per il fatto che la forza fisica che ragioni, insomma, 15 volte, sono uno spero, non è solo quello, è il fatto che perde freschezza. Allora bisogna trattare bene l'arte, darle freschezza. A proposito di freschezza, veniamo a bomba a trattare questo. C'è il caldo della giornata e la freschezza che arriva. La freschezza che arriva la sera e quindi porta la pace, il segno della pace naturalmente, non la freschezza della sera. E che cosa ricorda lui della freschezza della sera? Lui ricorda quando tornava a casa, con Albertine, sempre insieme, ma dopo essere stati all'ultimo villaggio. A me gli occhi questa è una cosa difficile, no? Quindi ricorda la freschezza della sera, del tornare a casa, dopo che è stato all'ultimo villaggio. Sentite come dicendo queste due cose, rientrare a casa, essere stati all'ultimo villaggio, si creano due fattori. Si crea il senso di un'avventura in comune con l'oggetto d'amore. E noi amiamo l'oggetto d'amore perché facciamo con lui, con lei, delle piccole o grandi avventure in comune. Queste sono le cose che poi uno ricorda per tutta la vita. L'avventura in comune può essere un viaggio, naturalmente, ma può essere anche una passeggiata. E la comunanza qui, andare all'ultimo di questa avventura, di andare all'ultimo villaggio, è come rinsaltata nel tornare a casa. Sentite come questo tornare a casa vuol dire tornare verso l'intimità. Mi sarà capitato mille volte, dopo una passeggiata, tornare in montagna, no? Se fatta con qualcuno che amavate, è ancora più intensa la cosa, tornare a casa, quindi dopo essere stati fuori, aver vissuto questa avventura in comune, adesso tornare con il tuo amato bene nella casa accogliente. Ricorda quindi questa scena, ma questo è impossibile ormai, che si realizzi questo stare insieme con lei, perché lei era morta. A distanza di poche righe trovate per 3 volte Elette è morta. Più avanti dice che il mio io che abbracciava così teneramente colei che adesso 6 righe dopo e te morto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 un'altra volta a distanza di 6 righe troverete l'idea di Albertine e te morte. 6 righe non sono poche e non sono tante. Intendo dire che quando uno ha un pensiero terribile, questo pensiero ti punge, ma è come se tu non riuscissi, ti punge, ti strazia, ma è come se tu non sentissi sempre questo strazio, nel senso che per qualche secondo la morsa si allenta, ma si allenta semplicemente dopo per riprenderti con rinnovato vigore. Chiunque soffre di dolori fisici e sa che cosa sono le sfitte o fitte che dir si voglia, sa che queste fitte ti aspettano, un dolore di mal di denti, va avanti con un dolore continuo, ma a volte anche a fitte, tu aspetti la prossima fitta, questo nel campo fisico, ma nel campo morale è così, lei mi ha lasciato, e poi rimani colpito dall'urto, rimani come intontito, se non che un istante dopo, 6 righe dopo, usate questa metafora, sei righe dopo torna, bella questa metafora, sei righe dopo torna il pensiero che mi ha lasciato. Domanda catechistica, quando torna il pensiero che mi ha lasciato, torna ogni sei righe. Perché io sono. Va bene? Andiamo avanti. Quando io non sarei mai più entrato in un bosco, già i boschi in cui andavano le passeggiate con Albertini, questa è la cosa più terribile che capiti, no? Cioè, ma come farò ad andare al bar, a quello stesso bar? Non ci vado più. Non ci vado più. Sì, ma uscire di casa e andare alla fermata dell'autobus, mettiamo dove incontravo, ma quello lo devo fare ancora, dovrei cambiare casa, molte persone che sono straziate cambiano tutto, cambiano casa. Ho conosciuto un numero strepitoso di donne nella mia vita che hanno, si sono tinti i capelli di rosso, ve l'ho raccontato, dopo ogni abbandono si tingevano i capelli di rosso e io assumevo, mi ricordo un'amica, persona perverissima, assunto subito attentamente mio testo, con i capelli di rosso. Si presentò a casa mia con gomma cortissima, capelli di rosso, perché? Perché cercava disperatamente molte persone in momenti di abbandono cercano avete capito che cosa? Un tampone. È come se a un certo punto, come esattamente, guarda. Esattamente come se tu avessi una ferita. Cosa fai per la ferita? Prendi l'ovatta, cosa prendi? L'alcol, l'acqua ossigenata? Qualcosa del genere, tampone la ferita. Quindi ci sono gli uomini tampone o donne tampone. Sono quelle che non contano affatto queste. Quella signora, quella ragazza che poi insomma io ho ricordato nel corso del tempo, di vita, eccetera, che venne con capelli tinti di osso, io ero un tampone, non un tampone tappa, ma insomma un tampone. Non so se ho detto l'idea. E ricorda le passeggiate. Ma perché si ricordano tanto le passeggiate? Perché si ricordano tanto le passeggiate? Vorrei fare una citazione che potrebbe essere quantomeno spuria o profana, ma c'è una canzone di uno che canta con la voce un po' crocetta, che si chiama Tiro Mancino, lo conoscete? Perché è una voce un po' orcata, che però dice, con una licenza poetica di un po', mi ha colpito che ricordava questa, ed è il film Le Fate Ignoranti, non l'avete visto, non sapete cosa sto facendo, E dice lì, ricordo le nostre cose nelle passeggiate, il secondo verso dice nelle passeggiate. Ma cosa dice nelle passeggiate? Ah, non fra le passeggiate, ma come? La preposizione va messa. Più volte mi sono irritato con il pulito della lingua come me, fra le passeggiate. No? Lo sbaglione, il solecismo, che aveva disegnato in una serie di larghe in modo implacabile, bucato il fondo, mi ha richiamato l'attenzione sulle passeggiate. Ma perché qualcuno ha fatto una persona che parla tanto le passeggiate? Perché è un momento di distensione, di pace, allora di allegria, si scherzava, capito? E quindi ricorda le passeggiate che avvenivano con tempi brumosi, con l'inondazione della nebbia, è meraviglioso questo, che ci dava l'illusione di essere circondati da un lago immenso. E a volte invece erano sere limpide di chiaro di luna che materializzava la terra. E che ci stanno a fare queste determinazioni del clima? Ma l'amore ha a che fare in un modo spaventoso con il meteo. con il meteo che prevedono ogni giorno, perché non c'è un amore astratto, c'è un amore che è nato in autunno, che finisce in estate, no? Cioè l'amore ha a che fare con la nebbia, oppure ha a che fare con il sole, l'estate, non c'è un amore astratto disincarnato, capite? E allora lui ricorda questi momenti dell'amore con la nebbia e poi come le sere di luna. Ma guardate che cosa Tine dice: quando la terra somiglia celeste, sembra celeste come non è, in trasparenza, smaterializzata. Cosa significa questa smaterializzazione della terra che diventa celeste? Significa che durante l'amore, nei momenti più incantevoli, è come se il mondo diventasse intorno a noi trasparente. Leopardi diceva che non c'è luogo in poetico e che uno può trovare poeticissimo un muro orrendo sul quale ci si sia appoggiati in un colloquio amoroso. Questo è assolutamente vero, questo è assolutamente vero, no? E allora questa terra che diventa azzurra, che diventa celeste, azzurra, è perché la loro passione, il loro affetto li aveva fatti diventare l'uno e l'altra come azzurri. Come azzurri, no? Tu vuoi fotografare due amanti, sarebbe pensare che mi stai avendo questa idea in mente, li puoi fotografare mentre sono avvicchiati tra di loro, e certamente rende l'idea, ma se li fai diventare in una sorta di improvvisato Chagall, se li fai diventare azzurri, capito? Se due amanti li tingi di blu, hai reso meglio l'idea del loro rapporto che se i mostri avvicchiati nella copula. Chiaro? Procediamo. Come vedete, il tono qui è lirico, appassionato, e allora il principio sostanziale dell'arte, che è l'ossimoro, quello per cui bisogna adesso cambiare tono, arriva subito e parla di François. E parla con rabbia e odio della, peraltro, attenzionata François, che doveva essere felice della morte di Albertino. Guardate quel punto a capo. E adesso tutto il periodo ci racconta con toni diversi di questa rabbia di François, no? E arriviamo addirittura al comico, perché è stato troppo lirico, e perché, attenzione ragazzi, perché Proust ha capito quello che io vi dicevo prima. Attenzione negli occhi, ha capito che bisogna trattare bene l'arte. E trattare bene vuol dire che se sei stato troppo lirico, adesso devi abbassare la temperatura emotiva. E quindi bisogna raccontare cose diverse. E bisogna parlare di François, che adesso era contenta che Albertine fosse morta. Ma François era sempre una serva. E quindi doveva curare della salute del suo padrone, no? E quindi si doveva curare della sua padrone, vedeva che se piangeva si faceva del male come se non si fosse messa la maglietta sotto la camicia o avesse mangiato contro voglia. Allora sentite come il discorso è diventato basso, come se in fondo tutto l'alto del dolore e dell'amore insieme fosse riservato a lui, al narratore, e quindi tanto più per il contrasto di lei, che prima odia, poi dice vabbè, ma in tutto sommato questo soffre, poveretto, il mio padrone, allora dobbiamo cercare di non farlo piangere, no? È il contrasto che fa sentire una tinta, un colore, no? È chiaro il punto? È una classica composizione musicale, ve l'ho detto varie volte, mettiamo un concerto mozartiano, Vivaldi, quello che volete voi. Voi trovate una composizione in cui c'è, all'inizio, ci sarà un tempo che chiama allegretto, no? Andante, poi ci sarà un adagio per la parte mediana, e poi ci sarà una parte allegra finale. No? Mozart non mi sarebbe mai venuto in mente di chiudere un suo concerto con una marcia funebre, no? Beethoven le marcia funebre le mette ben in mezzo, c'è una logica. E allora Proust, dopo che ci ha parlato di questo passo lirico, adesso deve parlarci di questa povera donna che è François, che è contenta che Albertina sia morta, pensa lui, con rabbia, contenta. E poi un'altra cosa bellissima, dice di Françoise, Proust, dice che ormai non temeva più Albertine, non lo odiava più, perché non poteva più fargli del male. Come il giorno è lento a morire. E qui c'è questa parte, vedete come si torna un tono lirico, questa parte mirabile. Guardate queste sere démesurées del te, è questa mancanza di misura del giorno che non finisce. Noi cominciamo a vederlo in questa stagione, no? Queste sere che non finiscono. Ora, le sere che non finiscono, se uno è contento o è felice, vanno bene. Ma se uno è triste, queste sere che non finiscono pensano, ma porca, quando arriva il telegiornale? Questo è il punto. Il telegiornale delle 8, quando arriva quella sigla che da sola potrebbe garantire un incremento di suicidi se non ci fossero già altre occasioni? La sigla del TG1 è forse la cosa più terribile che si sta in Italia. Non esiste nulla di così più di spaventoso come la sigla del TG1. Nulla, nulla. Qualcosa di sepolcrale, di cupo, di squartante. Guarda, è un'invenzione diabolica, dimostra la banalità del male, come diceva Anna Arendt, la sigla del TG1. Niente, questa è una piccola deviazione. Arriva il buio, e lui si muove nell'appartamento urtato, ben si è guardato dall'accendere le luci, ed ecco che improvvisamente vede qualcosa di spaventoso, che nel buio totale che potrebbe garantirgli pace, c'è invece, in mezzo al nero, attraverso il vetro traslucido, c'è la notte. La notte non è buia, è blu. Attenzione, avete capito, no? Quindi, quel blu della notte gli fa pensare che il giorno non finisca più. Vorrebbe che la notte fosse nera, cioè vorrebbe che fosse dimenticata questa giornata, ma il blu della notte gli fa ricordare che la notte è ancora viva. L'oscurità completa alla fine arriva, ma anche quando l'oscurità completa è arrivata, una stella sola vista in cortile, torna a essere incremento di ricordo. E quando fosse venuta poi l'alba, ma ormai sa che l'alba, per la sua freschezza, anziché portare pace, gli avrebbe portato nuovi motivi di tormento. E qui c'è questa meravigliosa considerazione. Attenzione bene, attenzione bene. Lui dice questo, dice, io avevo solo la speranza di dimenticare Albertino. Tutti, quando una persona amata se n'è andata, abbiamo questa speranza, che è la più terribile, la più forte, perché non possiamo dimenticare. Quanto è che pensiamo a una persona amata che se n'è andata? 200 volte prima. Avesse un pensiero incessante, un pensiero che viene, per usare la metafora di prima, ogni 6 righe. Qualunque cosa facciamo, il pensiero sta dietro. Ebbene, lui sa che arriverà un giorno, attenzione, il momento in cui dimenticherà Albertino. Perché è capitato per tutti, perché ha dimenticato tutti, perché tutti dimentichiamo tutti. Questo è il punto, perché tutti dimentichiamo tutti. Ma se questo è vero, allora non è terribile pensare che anche la persona che io adesso sto amando, adesso, in questo momento, e che mi sembra il centro della mia vita, anche lei un giorno sarà dimenticata. Non è un castigo spaventoso di questo oblio che io mi concedo. Il fatto che anche mia madre, se amo mia madre, so che sarò pieno di oblio, o addirittura di indifferenza nei confronti di mia madre. Voi siete giovani, siete giovani. Vergognosamente, ragazzi, prenderete i vostri cassetti, una fotografia, ricordatevi quello che vi dico, di una persona che vi aveva fatto impazzire. È impazzire. E voi vedrete questa fotografia, questa persona non ci sarà più. Sarà morta, è morta per voi, che è la stessa cosa, risposata, sposata. E voi vedrete questa fotografia e direte, ma come è possibile? Io non provo più nulla, sono così totalmente indifferente a questa persona. Ma se questo è vero, allora anche la persona con cui in questo momento mi trovo, forse un giorno sarò così indifferente. E quindi questo benessere che possiamo provare pensando un giorno la dimenticherò, è anche al tempo stesso un castigo terribile. La persona che noi amiamo adesso arriveremo a dimenticarla completamente. L'idea che io possa dimenticare la persona che adesso amo finché mi sarà completamente indifferente mi produce come un disturbo fisico. È come se mi picchiassero, è come se non riuscissi più a stare in piedi. Non è possibile che io da una parte ami questa persona e dall'altra parte senta che